GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Buongiorno e buona domenica dalla testata giornalistica regionale. Ai microfoni Maria Spezia e Antonio Cagliazza. La Digos di Trieste indaga alla ricerca degli autori delle scritte provocatorie tracciate con spray rosso indelebile e scoperte ieri mattina alla foiba di Basovizza. Gli investigatori stanno visionando le immagini della telecamera installata nel sito e di quelle attive nella zona. Il giorno dopo la scoperta delle scritte che hanno imbrattato l'asfalto davanti all'ingresso del monumento nazionale della foiba di Basovizza, il cielo è plumbo e cade a tratti una pioggerellina. C'è più movimento di visitatori del solito, anche perché domani è il giorno del ricordo. Le scritte sono state coperte quasi tutte con vernice bianca, dopo che le operazioni di rimozione non hanno avuto successo. La Polizia di Stato è al lavoro per individuare chi si è reso protagonista del gesto. Già acquisite le immagini dell'unica telecamera presente sul sito, una delle 5 inquadrature preimpostate da proprio sull'ingresso. L'aver agito col favore del buio non aiuta gli investigatori, che però si possono avvalere anche di altre telecamere della zona. Si ragiona su contenuti e forma delle scritte. Il motto dei partigiani titini, morte al fascismo, libertà al popolo, è stato infatti leggermente modificato. Narodu al popolo, appunto, che è un'assonanza con fascismo, diventa narodo, ma ai popoli al plurale, una variante meno comune, benché non scorretta. Altro elemento di riflessione è quell'161 che presumibilmente da ricollegarsi alla galassia internazionale antifascista, laddove 161 trasposto in lettere dell'alfabeto sta a significare AFA, cioè l'acronimo di Azione Antifascista in diverse lingue europee. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Ancora un'aggressione al personale sanitario di Latisana, questa volta il fatto è avvenuto in un'ambulanza che portava un cinquantenne latisanese in ospedale. Due operatori sono rimasti feriti in maniera non grave. L'episodio, il secondo in pochi giorni, che coinvolge il personale sanitario dell'ospedale di Latisana, è avvenuto intorno alle 19:30. L'ambulanza è stata chiamata per soccorrere una persona a terra. Si tratta di un uomo di 55 anni, residente a Latisana, già noto ai servizi sociali e alle forze dell'ordine. A bordo dell'ambulanza l'uomo ha dato in escandescenza, aggredendo due operatori sanitari e danneggiando il mezzo che si stava dirigendo verso il pronto soccorso dell'ospedale. Nel frattempo sono stati avvertiti i carabinieri, che hanno atteso l'arrivo dell'ambulanza. Una volta arrivati, il soggetto ha aggredito anche gli uomini dell'arma, che sono riusciti però a bloccarlo. Dopo le cure mediche, l'uomo è stato portato alla stazione dei carabinieri di Latisana. La denuncia è scattata d'ufficio, in quanto le accuse sono di minaccia aggravata, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico esercizio, poiché l'ambulanza è stata resa inutilizzabile per i danni arrecati. Lievi le ferite per i due sanitari aggrediti, a cui è stata riscontrata una prognosi di 3 giorni. Lo scorso 21 gennaio il personale infermieristico l'ospedale di Latisana era stato minacciato da due uomini, un 36enne e un 40enne, fratelli di origine albanesi, che avevano danneggiato parti della sala d'attesa del pronto soccorso. Latisana, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. E torniamo sulla Transalpina, fra Gorizia e Nova Gorica, dove ieri la festa per l'inaugurazione della capitale europea della cultura, per la prima volta transfrontaliera, è durata tutta la notte. Due città, due nazioni, una capitale. Così il premier sloveno Robert Golob dalla sua città, Nova Gorica, ha iniziato il suo intervento in occasione della capitale europea della cultura. Come ci unisce l'Isonzo, così ci unisce l'idea dell'Europa, nata dal sogno di pace, amicizia e uguaglianza, ha detto. Oggi, dove ci sentiamo tutti a casa, sloveni, italiani, friulani, lanciamo il messaggio al mondo: mai più guerre. Se in queste terre dove abbiamo conosciuto gli orrori della guerra siamo riusciti a fare questi passi storici, ha proseguito, allora possiamo essere da esempio all'Europa e di ciò dobbiamo essere orgogliosi. Ma orgoglio della cultura europea è sicuramente anche il flauto dell'uomo di Neanderthal, risalente a 60.000 anni fa e rinvenuto in Slovenia. Nella serata inaugurale di Go 2025, Boštjan Gombač ha suonato una fedele replica del primo strumento musicale dell'essere umano finora conosciuto. Un suono che ha collegato la serata in cui la regista Neda Russian-Briz, attraverso il videomapping, le danze di acrobati e brevi dialoghi, ha ricostruito la storia delle due città che portano, è stato detto, tante storie quante sono le persone che abitano questo territorio comune. E questo è il nostro patrimonio culturale che anche senza parole si riconosce nella musica, come quella suonata da due giovani virtuosi, il goriziano Alexander Gagiev e il siciliano Giuseppe Guerreri. La festa europea delle due Gorizie è poi proseguita nelle varie piazze cittadine. L'istituzionale transalpina è diventata DJ set, mentre Piazza Vittoria ha ospitato Remo Anzovino e Tish. Nada Choc, TGR, Friuli Venezia Giulia. E oggi a Go 2025 in Corso Verdi dalle 15 alle 17 animazione per giovanissimi e dalle 18 alle 20 gli allievi della scuola di musica Go Music si esibiranno per la rassegna Canta Quartieri. Sul palco di Piazza Vittoria dalle 17 sarà protagonista il gruppo degli SOS a cui seguirà il DJ set di Carmine M alle 18. Il finale è affidato al rapper e cantautore Dargen D'Amico e al suo DJ set dalle 19:30. Altro spettacolo Carmina Balcanica, nato da un'idea del compositore Walter Sivilotti, che propone un viaggio musicale nei territori verso i quali Gorizia e Nova Gorizia sono porta di scambio e di comunicazione. Sul palco brani, poesie di autori italiani e della ex Jugoslavia, con alternanza di musica, recitazione, orchestra e coro e solisti. Al Teatro Verdi di Gorizia alle 20:45. A causa delle condizioni meteo avverse previste per le prossime ore, il comune di Pordenone ha annullato la sfilata dei carri di carnevale in programma per il pomeriggio di oggi. E a proposito di meteo, il cielo è coperto su tutta la regione, ecco le temperature alle 11. A Trieste 10 gradi e 5 decimi, a Pordenone 9 gradi, a Gorizia 8 gradi e mezzo, a Udine 8, a Tolmezzo 6 e 5, a Forni di Sopra e a Tarvisio 4 gradi, Piancavallo 2 gradi e 5, Pada 2 gradi, sul Monte Lussari 1 grado e mezzo, sullo Zoncolan 0, a Grado 8 e 5, a Lignano 8. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: cielo coperto con precipitazioni deboli sulle Alpi, moderate altrove, specie verso ovest, dove potranno risultare anche abbondanti. Quota neve intorno ai 1300 metri sulle prealpi, a 1000 metri sulle Alpi, con possibilità di neve fino a fondovalle nel Tarvisiano. Nel pomeriggio sera il cielo resterà in genere coperto. Per domani cielo coperto sulle Alpi, nuvoloso altrove, zero termico intorno ai 1500 metri. Ora alcune brevi di sport. Per il calcio, stasera l'Udinese gioca al Maradona di Napoli, la partita alle 20:45. Per il basket, in Serie A1, la Pallacanestro Trieste affronta il Brescia in trasferta, palla 2 alle 18:15. In A2 ieri sera Cividale ha giocato sul parquet di Pesaro, uscendone sconfitta per 91-77. La fatica si paga, Cividale cade a Pesaro 91-77 e inizia nel peggiore dei modi, un miniciclo terribile che potrebbe risucchiarla ai margini della zona playoff. Al di là della differenza di stazze e talento a cui i Ducali hanno saputo sopperire tutta la stagione contro ogni tipo di avversario, la squadra di Pillastrini ruota in 7 con Mastellari che ne avrà ancora per molto e Miani lontanissimo da una condizione accettabile. Il dazio da pagare arriva inevitabile dopo 35 minuti più che sufficienti contro una VL che a inizio stagione era in teoria tra le favorite alla promozione. Nei primi due quarti la Gesteco difende piuttosto bene nelle rotazioni, ma non riesce mai a segnare da 3 punti, 0 su 15, con Redivo in seria difficoltà. Quando nella ripresa rota Ferrari e soprattutto l'argentino riescono a spezzare l'incantesimo, a perdersi un po' la difesa, che si concentra sugli esterni e lascia Praterie in mezzo all'area, a lunghi scafati come Zanotti e De Laurentiis. Un altro lungo marchigiano, Petrovic, segna 2 canestri da 3 praticamente consecutivi per il 73-63 e il nuovo più 10 della squadra di Leca. Poi, nonostante i problemi in difesa sul pick and roll, Cividale si appoggia a Lamb per provare ad arrivare nel consueto finale punto a punto. Ma Redivo, marcato con ogni mezzo lecito e non da Bucarelli, è nervoso e le troppe palle perse danno a Pesaro addirittura la possibilità di ribaltare il più 11 dell'andata. Bene, solo a tratti, Ferrari, Lamb e Redivo, da ritrovare al più presto invece l'apporto di Umberti, sonnacchioso. Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. E stasera alle 18 la volta di Apu Udine che giocherà a Forlì. Pallavolo di A2, Tinet Prata alle 16:30 gioca in trasferta contro Siena. La pagina La Cultura è incentrato sulla figura dell'educatrice filantropa Cara Slocomb di Brazzale, incontro che sarà condotto da Marisa Sestito, autrice di un libro dedicato alla statunitense trasferita in Italia in seguito alle nozze con un friulano, che aprì scuole di merletto intese all'emancipazione femminile. Appuntamento a Villa Caccia di Lestizza, l'agriturismo e Colonos alle 16.30. Sono le 12.25 minuti e 8 secondi. L'assistenza tecnica è stata curata da Carlo Morello e da Marco Ferrito. Ha collaborato in redazione Samantha Gon. La nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e alla radio oggi col GR delle 18.30 su questa frequenza. Grazie della cortese attenzione. Da Maria Spezia e da Antonio Cagliazza, buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.